24 mattino. Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, bentrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, del quale poi ci parlerà più approfonditamente Mauro Meazza verso le 7.40, però vi segnalo i titoli principali. Oggi è MPS, la notizia che trova più spazio sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Il titolo è "Aumento da 5 miliardi". Il famoso aumento di capitale del quale MPS, la banca Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica al mondo in profondissima crisi, ha bisogno per continuare a operare, a vivere. Via libera Consob sui bond, si aspettava anche questo ieri, cioè via libera della nostra autorità del controllo dei mercati finanziari alla conversione da bond in azioni. Sulla prima pagina, subito sotto la notizia di Monte dei Paschi di Siena, quindi un po' il contrario di ieri, c'è l'aggiornamento sulla questione Mediaset Vivendi. Sapete che Vivendi ha lanciato un'OPA ostile su Mediaset. Un'OPA ostile non significa OPA illegale. Cerchiamo subito di chiarire alcune cose, anche se ci sono stati ieri tantissimi commenti e anche oggi naturalmente sui giornali. Non è una mossa illegale, semplicemente ostile vuol dire, anche se la parola, l'aggettivo è talmente diciamo fuorviante, che lo stesso Bolloré ieri ha dichiarato non è ostile nel senso che usiamo noi nel linguaggio comune. In linguaggio finanziario significa che il CDA dell'azienda oggetto di OPA non ha approvato l'arrivo appunto di questo socio, che ieri è arrivato a oltre il 20% Vivendi, che quindi probabilmente vorrebbe andare anche oltre, cioè di avere un ruolo sempre maggiore nella società. Il CDA e il socio di maggioranza, che è Fininvest con circa il 40%, non approva questo. Per questo si parla di OPA ostile. Dopodiché il tema di ieri è stato la richiesta di un parere sulla GCOM, l'autorità per la regolazione delle comunicazioni, perché Vivendi, oltre ad avere queste mire su Mediaset, è anche l'azionista principale di Telecom, e a quel punto si profila uno scenario in cui il ruolo di Vivendi nelle telecomunicazioni italiane diventa veramente importante. Lo scenario appunto ce lo racconta Andrea Biondi, la strategia del Biscione. Poi naturalmente sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche le due inchieste che hanno sconvolto un po' ieri la capitale d'Italia a Roma e la capitale economica d'Italia a Milano, perché c'è l'inchiesta sulle nomine fatte dalla Giunta Raggi e poi Sala, indagato nell'inchiesta per Expo, che si è autosospeso da sindaco. E il Corriere della Sera titola proprio "Sala indagato si autosospende". Anche qui moltissimi commenti. La fotonotizia del Corriere della Sera, che a me pare un po' bizzarra come scelta nel giorno in cui, per esempio, probabilmente davvero si è arrivati alla tregua definitiva di Aleppo, tanto per citare una notizia importantissima di ieri. La fotonotizia del Corriere della Sera però è dedicata all'arrivo nelle sale di Rogue One, un colossal che è quello che si chiama prequel, cioè è un episodio della saga di Guerre Stellari che verrebbe prima, idealmente, di tutti quelli che abbiamo visto fino adesso. I ribelli dark di Star Wars, la saga fa un passo indietro. L'articolo poi di Paolo Mereghetti, uno dei critici cinematografici del Sole 24 Ore, a pagina 50. La Repubblica, Sala indagata per Expo, e poi il virgolettato "mi sospendo da sindaco". Questo è il titolo. Nel sommario invece l'inchiesta di Roma: la finanza sequestra gli atti delle nomine di Raggi, che replica ridicolo. In prima pagina però anche con un'enfasi minore rispetto alla notizia su Sala, la scalata a Mediaset con questo stop di Agicom, che in realtà deve essere ancora formalizzato. La motivazione è quella che vi dicevo: Vivendi controlla già Telecom, in pericolo il pluralismo dei media. Il commento in questo caso è di Massimo Giannini, che è stato vice direttore della Repubblica, poi si era dimesso per andare a condurre Ballarò, ricorderete, poi la conduzione di Ballarò dopo due stagioni è passata a un altro giornalista, Gianluca Semprini. Massimo Giannini è tornato alla Repubblica come commentatore, e da qui il suo articolo di oggi: "Lo straniero alle porte e l'inutile linea del Piave", e poi trovate questo lungo articolo a pagina 47. La fotonotizia però è dedicata a un'inchiesta che ha fatto Repubblica, Angelo Acquaro, la trovate poi alle pagine 50 e 51. 2021 in questa gigantesca fabbrica cinese dove vengono fabbricati gli addobbi per le feste. Molti di questi arrivano in Europa e anche in Italia, da qui il titolo La città che fabbrica il Natale del mondo. Il Messaggero mette insieme nel titolo le due inchieste, scossa su Raggi e Sala, indagine sulle nomine del sindaco di Roma, polizia in Campidoglio e la replica di Virginia Raggi, in questo caso Repubblica enfatizzava la parola ridicolo che ha usato Raggi per definire queste perquisizioni, il Messaggero invece riporta altre tre parole, nulla da nascondere. La fotonotizia, anche diversa per il Messaggero da Corriere Repubblica, si riferisce a una notizia, un aggiornamento sull'inchiesta dell'aereo Egyptair che è caduto lo scorso 19 maggio mentre volava da Parigi al Cairo. La pista terrorista per il volo da Parigi che è precipitato a maggio. Sarebbe questo il primo risultato dell'analisi sui resti dei passeggeri e dell'aereo. La Stampa ha una fotonotizia che è una bella immagine del Palazzo della Camera che ieri è stato al buio in segno di solidarietà per i martiri siriani, luci spente per Aleppo. Tra l'altro vi ricordo che di Aleppo e di Siria si parlerà poi dopo il GR delle 8 con Oscar Giannino in Attenti a noi due. Il titolo principale però della Stampa è simile a quello del Messaggero, mette insieme le due inchieste di Milano e Roma, doppia inchiesta Milano e Roma, bufera sui sindaci. L'Avvenire invece cambia ancora prospettiva, la fotonotizia è dedicata a Aleppo, fra cecchini e terrore, il grande esodo da Aleppo, ieri infatti sono stati evacuati i primi 2000 civili, ma il titolo principale si riferisce a uno degli argomenti che si è toccati nel Consiglio europeo di ieri, dove sappiamo ha debuttato Paolo Gentiloni come primo ministro del nuovo governo, e si è parlato anche di immigrazione, e da qui il titolo dell'Avvenire, Colpa di soccorso. Frontex, che è l'agenzia europea che dovrebbe occuparsi di appunto frontiere, di tutela o comunque di coordinamento di tutte le persone e i mezzi impegnati individuare e salvare gli immigrati che arrivano su barconi quasi sempre a rischio di affondare. Frontex accusa le ONG in mare, aiutate gli scafisti. E Gentiloni, questo Avvenire approfitta per riportare le dichiarazioni di ieri di Gentiloni, che in questo Consiglio europeo ha detto ancora una volta l'impegno dell'Unione europea sui profughi è scarso, insufficiente. Il Giorno ha una foto di Giuseppe Sala pensieroso e il titolo Indagato e tra virgolette mi sospendo. Il Giorno ricorda che proprio oggi Sala andrà dal prefetto per formalizzare questa autosospensione. Il titolo principale però è dedicato a Mediaset, altolà ai francesi, il primo stop alla scalata arriva dall'autority, concentrazione eccessiva, il nodo è Telecom che è controllata da Bolloré, appunto il finanziere francese, finanziere e industriale francese che controlla anche Vivendi. Libero, e qui poi magari torneremo dopo la pausa sulle posizioni diverse che ci sono sulla questione Vivendi Mediaset. Libero titola Perché Mediaset scricchiola? Meglio venderla? Allarme. Il piano di Bolloré per conquistare il Biscione è solido. Da troppo il Cavaliere non si occupa più dell'azienda. Ed è il parere di Vittorio Feltri, direttore di Libero, espresso in prima pagina, che poi continua a pagina 3. Ci fermiamo però un attimo per una pausa, ci ritroviamo tra qualche minuto. Mattino. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani e ringrazio tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi, anche di critica, al 349-238-6666, SMS o WhatsApp e a tutti quelli che chiedono quando torna Alessandro Milan, torna lunedì. Lunedì ritroverete Alessandro alle 6:30 puntualissimo con il Bar Lamento. ma eravamo sulle prime pagine dei giornali, Libero, dicevo, titola sulla questione Vivendi, sulla vicenda Vivendi Mediaset, ma al centro c'è una fotonotizia divisa in quattro intitolata Fini, Berlusconi e Grillo rovinati dalle donne. A destra nella vita privata, a sinistra in politica, quanti guai per i leader del gentil sesso. Il riferimento, lo spunto è quello della vicenda che ieri ha riconquistato le prime pagine dei giornali della casa di Monte Carlo, che era di proprietà di AN quando il presidente di AN era Gianfranco Fini, acquistata dal fratello della compagna Elisabetta Tugliani per un prezzo ritenuto, anzi non ritenuto, era circa un quinto del prezzo di mercato, una brutta vicenda di cui adesso emergono altri dettagli. Il commento è di Renato Farina, inizia a pagina in copertina e continua a pagina 5, vi leggo le prime righe. Le donne salveranno la terra, scrive opportunamente Aldo Cazzullo nel suo bestseller. Prima che salvino il pianeta, hanno intanto rovinato come minimo il centrodestra e per par condicio si dilettano con risultati assai promettenti a silurare leader del centro-sinistra. E le quattro foto che vi dicevo sono di Elisabetta Tugliani, per quanto riguarda la presunta rovina di Gianfranco Fini, di Ruby Rubacuori per l'altrettanto presunta rovina di Silvio Berlusconi, Virginia Raggi e Grillo e Maria Elena Boschi e Matteo Renzi. Trovate appunto, vi dicevo tutto alla pagina 5, Fini come il cavaliere rovinato dalle donne. Il giornale sciocca Milano, Sala si autosospende e poi sempre in prima pagina la vicenda Vivendi. Ieri abbiamo letto un pezzo dell'editoriale del direttore del giornale Alessandro Sallusti che era fin da ieri schierato contro questa OPA ostile. Il titolo di oggi è Assalto a Mediaset, l'altolà del governo al furbetto francese. L'Unità. Non c'è niente da indagare. Forse un po' a sorpresa, il titolo è riferito alla vicenda a quello che è successo ieri nel Campidoglio e qui approfitto di un messaggio di un ascoltatore. È vero, tecnicamente non è stata una perquisizione, la Guardia di Finanza è andata in Campidoglio per ritirare i documenti che erano stati chiesti dalla Procura. Quindi anche l'Unità spiega Finanza negli uffici della Raggi e però. Appunto, chi si era illuso che questo non c'è niente da indagare fosse qualcosa di positivo, un giudizio positivo dell'Unità sulla Giunta Raggi, ebbene no, perché già nel sommario si spiega, si dice, in 6 mesi solo molte nomine, quasi tutte sbagliate, punto, zero fatti. La fotonotizia è dedicata ad Aleppo, al via l'evacuazione di civili e si vedono appunto presumibilmente un padre con suo figlio che su una carrozzella che diventa un carrello per portare via le proprie cose, portano via alcune coperte seguite da una persona ferita. La verità, come spesso accade, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro oltre 2 mesi fa ormai, titola su un'inchiesta spesso su malaffare italiano, malcostume italiano che solo la verità introduce. Questa volta è legata al fatto che ieri per andare al Consiglio europeo ci sono stati due voli di Stato, il titolo Due voli di Stato alla medesima ora per portare questi due a Bruxelles. Questi due sono Paolo Gentiloni, primo ministro e Angelino Alfano, neo ministro degli esteri e per questo appunto volato a Bruxelles insieme non insieme ma contemporaneamente a Gentiloni. E quello che lo dicono i numeri, la verità definisce un inutile spreco. Il premier ci è costato 50.000 euro, il ministro degli esteri altri 20.000. Risultato del vertice, il solito nulla. Ma almeno i loro colleghi europei si servono del jet di linea. E qui la storia raccontata da Mario Giordano e poi continua a pagina 7. La fotonotizia. Invece è una foto di Lapo Elkan e il titolo è Lapo Elkan perde l'88% in borsa in soli 3 anni. Ora, io non so perché la verità si accanisca così contro Lapo Elkan. Posso solo dire questo da giornalista del Sole 24 Ore, che la notizia di ieri su Italia Independent, che è l'azienda a cui fa riferimento questo titolo, quindi non è Lapo Elkan che ha perso l'88% in borsa, lui è azionista di maggioranza, non proprietario, ma Italia Independent, la notizia di ieri non è questa, ma la trovate su tutti i giornali e anche sul Sole 24 Ore, a pagina 37, la notizia notizia è di una ricapitalizzazione. John Elkann affianca l'Apo in Italia Independent. Ieri, infatti, si è chiusa questa operazione di aumento di capitale per un controvalore complessivo di oltre 10 milioni. Perché dico che la notizia è questa? Perché se è vero che l'azienda ha perso, il titolo in borsa ha perso così tanto in questi ultimi 3 anni, è in atto un piano di risanamento per quella che era stata comunque un'azienda, un gioiellino del comparto degli occhiali e tra l'altro, secondo molti osservatori, ha anche aperto la strada a rendere più concorrenziale il mercato dei grandi player degli occhiali in Italia. Il secolo XIX ve lo segnalo perché, come dicevamo settimana scorsa, questo è il momento in cui si aprono le stagioni liriche dei grandi teatri. Uno di questi è il Carlo Felice di Genova e si è aperto con la Traviata. La fotonotizia è questa: dell'allestimento della Traviata, festa grande alla prima del Carlo Felice. Però il titolo, diciamo, principale è quello di Expo Milano, indagato Sala, e poi c'è un'altra fotonotizia perché ieri c'è stato un recupero di una partita di Serie A che era stata rimandata per pioggia in settembre. Il Genoa ha battuto la Fiorentina 1-0. Ora però vorrei sentire Mauro Meazza perché non è ancora disponibile, perché oggi ci sono talmente tante cose sul Sole 24 Ore che volevo dargli un po' più di tempo, ma adesso appena lo chiamiamo. Appunto, lo sentiremo. C'è tempo allora per segnalare la prima pagina del manifesto, il Partito della Nazione. Sapete che di questo è il solito titolo un po' a effetto del manifesto. Di Partito della Nazione si era parlato quando Renzi era nel suo momento di massima popolarità dopo dopo il famoso 40% ottenuto alle elezioni europee, e si diceva appunto che voleva il senso di questo Partito della Nazione era di inglobare anche parte del centrodestra. Ora però è arrivato Mauro Meazza e io lo saluto, gli do il buongiorno e sono appunto molto felice di dargli magari un minuto in più per parlarci del Sole 24 Ore di oggi, che tra l'altro è in edicola insieme a uno dei nostri due mensili che è l'altro è How to Spend It. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno, grazie Giulia anche del minuto supplementare. Beh, innanzitutto avremmo dovuto dire forse bonjour e cominciare questa conversazione in francese perché mi riferisco naturalmente al fatto che, come vedi anche sul Sole 24 Ore, con ampia trattazione c'è questa vicenda appunto Mediaset Vivendi di cui hai già parlato. Oggi c'è il CEO o il CEO, non so, insomma, il capo a Roma per il CDA di Telecom, e quindi potrebbero esserci degli incontri per capire come risolvere questo problema di questa OPA ostile, che come fosse un'OPA ostile, come hai precisato, non significa illegale. Mi compiaccio della tua puntualità nel ricordare agli ascoltatori che l'operazione non ha per ora profili tali da essere giudicata non corretta, non legale. Casomai c'è una questione di correttezza commerciale, ma questo non è pertinenza appunto della magistratura. Ci sono però molte altre cose. Allora, vorrei cominciare da qualche aspetto fiscale. Sai che gli aspetti fiscali mi sono Certo. cari. E poi comunque questa è oggi, no? No, oggi è la scadenza dell'IMU, quindi. Perfettamente, guarda, sei molto molto informata. Vedo che leggi religiosamente norme e Sì. tributi, perché quindi avrai visto che, ricordando che oggi scade il termine per IMU e TASI, ricordiamo anche che è possibile, grazie ad alcune modifiche intervenute proprio di recente, utilizzare anche l'F24 cartaceo, insomma la delega di pagamento. Oltre i 1.000 euro si può comunque utilizzare cartacea, ma è stata anche diffusa ieri la bozza della nuova CU. Oddio, Allora, e cos'è? la certificazione unica è quella che i lavoratori dipendenti, come te e come me, ricevono dal datore di lavoro per il riassunto dei redditi e delle imposte pagate l'anno Il vecchio precedente. unico, adesso si chiama No, certificazione si chiamava CUD una volta, unico. ha perso la D, però usarlo solo con le due lettere mi sembrava irrispettoso, anche perché parlando con una signora non mi sembra il caso. Allora preferisco il CU, cioè certificazione unica, ma tutti i dettagli sono naturalmente su norme e tributi. Poi non è un problema invece per lavoratori dipendenti, ma una questione che riguarda le partite IVA. Lo spesometro, sono partite 20.000 lettere per verificare, per chiedere ai contribuenti appunto se si sono per caso dimenticati qualcosa, perché ci sono delle difformità tra quanto dichiarato come fatturato e i dati dei clienti. Quindi in gergo lo spesometro. Oh, naturalmente si parla tanto di MPS nelle primissime pagine del Sole 24 Ore, ma andando qua e là, pescando fior da fiore, mi verrebbe da dire, ti consiglierei anche di non dimenticare le pagine di guida alla legge di bilancio. Siamo anche alla domani, quinta puntata. Siamo alla settima puntata, ma la cosa importante è che oggi parliamo, ad esempio, delle novità per la sanità e per gli enti locali, ma anche domani ci saranno le agevolazioni per la famiglia. Sai che ci sono diversi bonus dentro questa legge di bilancio. Allora, domani il riepilogo, la spiegazione proprio con il Sole 24 Ore, sempre in ambito norme e tributi, naturalmente, che tu leggerai come sempre religiosamente. Oh, ti vorrei poi chiedere dell'anno del gallo, perché il 2017, apprendo dal Sole 24 Ore, che è attento a vari aspetti della vita economica, il Sole 24 Ore segnala che è l'anno del gallo. Ne parla tal Giulia Crivelli nelle pagine di Moda 24, essendo oggi venerdì. Ecco, perché l'anno del gallo, dice, scrive appunto Giulia Crivelli, che non so se hai avuto il piacere di conoscere, scrive che dovrebbe segnare un modesto ritorno alla crescita per il settore moda e lusso, in particolare abbigliamento sportivo, se ho capito bene, se ho ben compreso. Sì, hai capito benissimo, devo dirti, per una volta, vabbè, ammetto di conoscerla, la vedo qualche mattina nello specchio questa signora, e solo per ricordare che chi pensa che la moda sia solo una cosa frivola, in realtà è la seconda industria del nostro paese, quindi se il 2017 portirà qualcosa di meglio, l'anno del gallo è l'anno cinese, inizia il 25 gennaio, credo che sia una buona notizia per tutti, proprio dal punto di vista del volano economico. E infatti questo è lo spirito anche dell'articolo che oggi apre Moda 24, appunto verificare le prospettive di crescita per il settore nel mondo e anche soprattutto per l'Italia, perché appunto, come dicevi, è per noi italiani questo della moda è uno dei settori chiave, diciamo, insieme ad altri, naturalmente anche alla manifattura di particolare precisione, ma ad esempio anche per la moda. Oh, vorrei poi in chiusura segnalarti che sono state bocciate le norme regionali che volevano bloccare o limitare in qualche modo Uber. Hai presente Uber e i taxi? Certo. C'erano delle regioni, come ad esempio il Piemonte, avevano varato le norme restrittive, ma la Corte Costituzionale ha detto no, ci spiace, deve intervenire lo Stato. E allora noi in attesa cosa possiamo dire se non traffico! Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali e ci resta ancora il Fatto Quotidiano, che vi segnalo. Tra l'altro la fotonotizia è riferita a una dichiarazione di ieri di De Mistura, che è l'inviato ONU in Siria, che dice i massacri di Aleppo sono un fallimento dell'ONU, quindi ammette appunto che l'ONU, come purtroppo in molte altre delle crisi degli ultimi 20 anni, ne ricordo due su tutte, quella del Ruanda, la guerra civile in Ruanda, il massacro del Ruanda, 500.000 persone morte, massacrate in circa un mese, e poi naturalmente la guerra in Jugoslavia e l'assalto in particolare di Srebrenica. Quindi l'ONU sì, purtroppo non ha dato anche questa volta una prova decisiva. Vi segnalo quindi questo, e ne approfitto anche per ricordarvi che dopo il GR uno degli ospiti di Oscar Giannino sarà proprio De Mistura. E gli altri titoli riguardano un retroscena che secondo il Fatto Quotidiano, nella trattativa sul nuovo governo c'è entrata anche l'accordo sulle nomine di Stato, cioè le nomine ai vertici di Eni e nelle Poste, titolo molto critico, la lista di Renzi e Gentiloni per tenersi appunto Eni, Enel e Poste. Ve lo segnalo così per correttezza, per completezza. L'editoriale di oggi di Marco Travaglio è una lunghissima, articolatissima, sarcastica critica a Confindustria, si chiama Confindustria AAA, e sì, non risparmia proprio niente a Confindustria, che lo ricordo, ma credo che la maggior parte di voi lo sappiano, è l'azionista principale del gruppo Sole 24 Ore, quindi anche di questa radio. Passiamo alle pagine interne, abbiamo ancora un po' di tempo. Vi segnalo dal Corriere della Sera, la trovate anche su Repubblica, questo racconto da Gerusalemme di Davide Frattini: Israele, la sfida delle minigonne contro i divieti del Parlamento. Quindi, mentre qui da noi sappiamo il presidente della Camera, Laura Boldrini, che se mai incontrerò mi bacchetterà perché non la chiamo la presidenta, è impegnata in questa battaglia lessicale. Invece il direttore della Knesset, il Parlamento israeliano, ha proibito gli abiti succinti, quindi per esempio le minigonne, e le assistenti parlamentari in particolare si sono ribellate. A proposito di smog, perché sapete che è tornato l'allarme smog in molte città, tra le quali Milano e Roma, perché soprattutto per via del riscaldamento che si è impennato perché le temperature sono scese, sono stati subito decisi per esempio alcuni blocchi del traffico e limiti alle temperature che si possono tenere in casa o nei negozi. Sergio Rizzo ci racconta a pagina 25 smog, divieti ignorati e furbetti impuniti, in particolare sull'emergenza inquinamento a Roma. I limiti ci sono e severi, ma rispettarli è un'opzione riservata solo ai meno scaltri, e questo riguarda sia l'uso dell'automobile che i riscaldamenti. E visto che parliamo di inquinamento, dalla cronaca locale sempre del Corriere della Sera, vi segnalo questa che è una buona notizia: Concorezzo, che è un comune della provincia di Monza e Brianza, provincia che c'è ancora, ma forse non ci sarà, chi lo sa, la famosa questione dell'abolizione delle province. Concorrezzo è il primo comune ad adottare questo sistema che si chiama Libra, ed è un sistema per il quale quando le auto frenano sulle strade producono energia, e questa energia potrebbe servire a illuminare case e strade. Una bella storia nata da una start-up sperimentata per 2 anni in un centro commerciale, e adesso appunto si passa alla strada che collega Monza e Trezzo. Dalla Repubblica un approfondimento sul Jobs Act, ne abbiamo parlato prima nella prima parte di 24 Mattino, è la riforma del lavoro introdotta dal governo Renzi, è una delle più importanti riforme, così viene considerata soprattutto dal governo Renzi, dei suoi 1.000 giorni. Sapete che però la CGIL ha raccolto 3 milioni di firme per fare un referendum e proporre l'abrogazione di 3 articoli in particolare di questa legge. Ora, l'11 gennaio, la Corte Costituzionale dirà se si può fare o no questo referendum, e la Repubblica ha intervistato un giuslavorista, cioè un esperto di temi del lavoro, che è Pietro Ichino, che è stato eletto al Senato nelle scelte di Scelta Civica e poi è passato, è uno dei molti parlamentari che hanno cambiato partito, è diventato nel 2015 parte del gruppo del Partito Democratico. Il virgolettato di questa intervista di Giovanna Casadio è: la legge non si cambia e il quesito è inammissibile. Vedremo se la Corte Costituzionale avrà lo stesso parere e quindi dirà che non si può fare il referendum, appunto. Sempre sulla questione del lavoro, delle novità introdotte dal Jobs Act, a pagina 15 l'impennata dei voucher. Nei primi 9 mesi dell'anno sono stati venduti 110 milioni di ticket lavoro in Lombardia e Veneto, l'uso maggiore. Sapete che appunto è questo modo di metodo di pagamento. Tra l'altro c'è uno schema, sempre a pagina 15 della Repubblica, molto chiaro, che fa vedere come nel 2008 fossero solo 536, perché lo strumento esisteva già, ma non si poteva usare tanto quanto permette il Jobs Act, e nel 2015 siamo passati a 115.079, con un aumento quindi del 70%. Una bella intervista di Francesco Merlo, sempre su Repubblica, pagina 17, a Deborah Serracchiani. Mercoledì scorso è governatore della regione Friuli Venezia Giulia, nonché vicepresidente del Partito Democratico, Deborah Serracchiani. E qualcuno forse la ricorderà anni fa, quando dal palco di una manifestazione a Roma disse: con questi dirigenti, questi del PD, non vinceremo mai. Poi si è evidentemente convinta che bisognava passare dalla critica alle proposte concrete. È entrata proprio nella struttura del PD, ora è governatore del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì in aula appunto ha pianto perché, come tantissimi esponenti politici, soprattutto donne, riceve soprattutto sui social network degli insulti che toccano tutto, la sua famiglia, le persone, la vita privata, e quindi e per questo piangeva, e il titolo dell'intervista è: Rivendico il pianto, meglio della politica fatta solo di insulti. Ultima puntata dell'inchiesta sul Front National su Repubblica, sempre la battaglia delle idee. Purtroppo pochissimo altro tempo per segnalare due cose che mi ero tenuta da parte. Vi ricordo appunto che col Sole 24 Ore in edicola al mensile Il, che è tutto dedicato alle previsioni per il 2017, la copertina appunto L'anno che vorrei. E poi vi segnalo, tanto ormai il mio coming out l'ho fatto tanto tempo fa, di amante dei gatti, dei cani e di tutti gli animali, a pagina 17 di Limero, animali antipazzia. Se vi trovate sull'orlo di una crisi di nervi, provate ad adottare un cane o un gatto. Ultimissima segnalazione, sempre in edicola oggi internazionale, che proprio agli animali dedica la copertina, perché richiama a un articolo del Virginia Quarterly Review, che poi trovate a partire da pagina 54, potere animale, bisogna ripensare in modo radicale il rapporto tra animali e esseri umani, punto interrogativo, ma credo che la risposta sia sì. Ancora grazie a tutti, grazie a Peter Bescapè in regia, Lorenzo Nespoli in redazione. Ricordo che Alessandro Milan torna lunedì, noi invece ci sentiamo, se volete, domani per la rassegna stampa europea alle 6:15 e domenica alle 7:15 per quella dei quotidiani italiani. Un buon venerdì e un buon fine settimana da Giulia Crivelli.